Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, il venerdì è arrivato anche per noi, cara Nicoletta. Allora, come abbiamo anticipato ieri ai nostri amici affezionati del nostro programma, abbiamo spostato ad oggi la nostra scuola di risparmio, la nostra puntata settimanale di Investire Informati, in quanto, dati i fatti di ieri, ci sembrava più coerente fare oggi un punto della situazione, il giorno dopo il super giovedì. Quindi commenteremo insieme più tardi a Lorenzo Alfieri di JP Morgan, dal punto di vista della reazione dei mercati finanziari, l'esito delle elezioni britanniche, le dichiarazioni di Mario Draghi e la riunione del direttivo della Banca Centrale Europea, ma anche l'effetto in borsa che abbiamo visto ieri molto forte, stamattina continua, dell'ennesimo spettacolo parlamentare che si è consumato in Italia. Insomma, per Investire Informati oggi, Nicoletta, da quello che capisco, bisogna avere ben chiara, a quanto pare, l'agenda politica mondiale, perché senza questa bussola non si va avanti, non possiamo andare da nessuna parte. Politica e finanza vanno sempre di più di pari passo, oggi ne parleremo diffusamente. Intanto la borsa è tutta positiva, rialzo di mezzo punto, la sterlina tutta traballante, ma ci torneremo più tardi. Dai, che finalmente ci siamo, sì. Siamo arrivati a venerdì e quindi possiamo iniziare a pensare al weekend, che, diciamola tutta, sono le 48 ore più attese e più amate della settimana. Non a caso, Deborah, come si dice? Dulcis in fundo. Però stavo riflettendo che temo che questa espressione latina, che letteralmente significa proprio il dolce viene in fondo, rischia di avere un po' le ore contate per via della cattiva stampa che accompagna ormai il dolce e lo zucchero in particolare, che è sempre più al centro dell'attenzione di medici, ricercatori, epidemiologi per le conseguenze negative sulla salute legate al suo consumo. Tra l'altro, proprio freschissimo di stampa, è uscito ieri in Italia il libro dello stesso autore di un libro molto, che ha avuto grande successo, Perché ingrassiamo. Questa volta l'autore, che è uno dei giornalisti scientifici più noti ed esperti di alimentazione statunitensi, mette nero su bianco tutti i danni di cui questa dolce sostanza è responsabile, tanto che, pensate, arriva a paragonarla addirittura al tabacco. Insomma, c'è, Deborah, noi abbiamo appena preso il caffè, devo dire che Deborah è molto brava perché non mette neanche un granino di caffè. Io un pallino di zucchero un pallino non lo metto. Poi dipende dai caffè, ne parliamo spesso, no? Dipende anche da dove lo fai. A casa mi sono convertita all'eliminazione radicale, devo dire. Aiutano i latti vegetali comunque. Parliamo di pallini perché lo prendiamo alla macchinetta. Esatto. No? Perché dicono, ma che pallini mettono esatto, queste due? Perché quello del caffè, diciamola tutta, perché quello del bar non ci piace. Non allora, sicuramente non lo prendo alla macchinetta, credo, ma lo prende rigorosamente amaro il nostro ospite. L'avevamo già anticipato ieri, sì, i nostri ascoltatori, che oggi torna a Cuore Denari il dottor Filippo Ongaro, direttore scientifico dell'Istituto di Medicina Rigenerativa e Anti-Aging Isberian, che è tornato, eccolo qua in linea con noi. Buongiorno dottor Ongaro, Buongiorno. Bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie. Quanti caffè beve e di zucchero però nulla, vero? Di zucchero assolutamente nulla, però sono fortunato perché proprio non mi è mai piaciuto il caffè con lo zucchero, quindi non è stata, diciamo, una rinuncia in questo caso. Vedi, si nasce così, perfetto. È lui così. Si nasce perfetto, ce l'ha nel DNA proprio. Senta. No. Perfetti assolutamente no, perfettini. Ma in questo caso fortunati, perché... Allora, senta dottor Ongaro, facciamo i seri, perché noi tante volte abbiamo detto che l'informazione è alla base della prevenzione. Se sappiamo le cose, abbiamo buone probabilità di scegliere, no? E magari la cosa giusta. Sappiamo ad esempio che lo zucchero non è solo un alimento che apporta le cosiddette calorie vuote, cioè calorie in abbondanza ma nessun elemento utile dal punto di vista nutrizionale, un po' come fa l'alcol, che sono quindi responsabili anche dell'aumento di peso. Ma lo zucchero produce una serie di danni, a iniziare dal cuore, tanto che, dottor Ongaro, partiamo proprio da qui, l'Associazione Americana per il Cuore ha vietato fino ai 2 anni di età il consumo di dolci e bibite gasate, e anche dopo, mi sembra fino ai 18 anni, raccomanda di non superare i 25 grammi al giorno, che tradotti in cucchiaini sono esattamente 6, ma un po' scarsette. Ma dottor Ongaro, ci sono però posizioni anche decisamente più estreme. Noi ne abbiamo parlato tante volte in trasmissione, in diverse occasioni, direi che lei e anche tanti suoi colleghi hanno sempre mandato un messaggio forte e chiaro: lo zucchero è sul piano alimentare inutile e potenzialmente dannoso. Ma dottor Ongaro, mi spieghi bene, che cosa fa esattamente, quali sono i rischi e soprattutto è lo zucchero in sé come sostanza, è un problema di quantità, di frequenza di consumo o che altro? Ma allora è un insieme di tutte queste cose, Nicoletta, nel senso che io non amo le comunicazioni di tipo allarmistico, quindi secondo me insomma non bisogna spaventare, non direi nemmeno che lo zucchero possa essere paragonato al tabacco, anche un po' estremo, vero? Anche perché da un punto di vista nutrizionale l'uomo fortunatamente o sfortunatamente ha un'adattabilità molto alta, cosa che invece non ha per esempio per l'assorbimento di sostanze assolutamente nocive come il tabacco. Però è indubbiamente vero che lo zucchero non è una sostanza che ci fa bene, è altrettanto vero che non è una sostanza utile. Direi che è un insieme di fattori che riguardano sia sicuramente la quantità che la frequenza di consumo, ma anche il consumo in sé. Mi spiego, sono almeno alcune aree che vanno tenute presenti. Insomma, lo zucchero dà una grande sollecitazione, una sollecitazione molto brusca al rilascio di insulina. L'insulina è un ormone connesso con tanti problemi se a livelli troppo alti, la sindrome metabolica, il diabete, le problematiche cardiache. Quindi l'insulina è un ormone che è fisiologico, deve ovviamente esserci e deve essere regolato però in maniera naturale da un'alimentazione corretta. Lo zucchero sollecita molto il rilascio di insulina da parte del pancreas e fa a un certo punto diventare questo meccanismo di regolazione insulinica e glicemica piuttosto difettoso. Poi lo zucchero favorisce l'aggregazione, che è il legame proprio dello zucchero stesso alle proteine corporee, che ne altera la funzionalità e la struttura e che è sostanzialmente un'accelerazione dell'invecchiamento, quindi in questo senso agisce su tutti i distretti. Non da ultimo, sono appena tornato proprio un paio di giorni fa da una conferenza a Los Angeles e proprio su questo uno dei fattori più danneggiati, uno degli elementi più danneggiati dall'aggregazione è il cervello. Ecco, guardi che Paolo da Modena proprio di cervello, le stavo leggendo il WhatsApp, ma vi ricordate la pubblicità in TV di vari anni fa che invitava al consumo dello zucchero, alimento per la mente? Sto arrivando a questo, infatti. Ecco Paolo, cioè, però Paolo ci ha anticipato, vuol dire che non ha preso tanto zucchero oggi. Può essere che sia questa la ragione, ma voglio dire, è un po' paradossale appunto che venga fuori dopo anni in cui si è detto lo zucchero serve al cervello, che venga fuori che in realtà proprio sul cervello può avere un'azione particolarmente nociva. In più c'è da dire anche un'altra cosa: lo zucchero è carburante d'elezione per le cellule oncologiche, per le cellule tumorali, dunque anche nel settore, non sto dicendo che sia una causa, ma nel settore delle problematiche oncologiche certamente un'esagerazione con lo zucchero non è una cosa favorevole. Però detto tutto questo, ricordiamo sempre che c'è una grande adattabilità metabolica da parte dell'organismo e che non è detto che lo zucchero sia una causa di tutte queste problematiche. Può essere una concausa, può essere un fattore che favorisce determinate degenerazioni, dunque non essendo essenziale per il corpo, il concetto da dire è limitiamolo al massimo e quando abbiamo voglia di un dolce godiamoci quel dolce, ma cerchiamo di evitare l'utilizzo quasi inconsapevole quotidiano di zucchero e tutta un'altra serie di alimenti che ci assomigliano molto, insomma. Allora, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, il dottor Ongaro naturalmente resta con noi, un ascoltatore via WhatsApp ci scrive: lo stesso discorso si applica al fruttosio contenuto nella frutta? Dottor Ongaro. Allora, si applica al fruttosio contenuto nella frutta, ma in questo senso, quando si mangia una moderata quantità di frutta non c'è assolutamente problema, la frutta è un alimento sano, ci mancherebbe. Certamente se si mangia troppa frutta si rischia di avere un surplus anche in questo caso di zuccheri. Il fruttosio isolato e utilizzato come zucchero aggiuntivo in realtà pare non sia una scelta ottimale. Dunque, fruttosio nella frutta sì, a patto che non se ne mangi una quantità eccessiva, fruttosio come soluzione alternativa non credo faccia una grande differenza, secondo alcuni studi addirittura potrebbe essere in un certo senso peggio. Allora, noi ci fermiamo, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, salutiamo anche Maria Stella Levi, si firma, ci dice gli anni, 52 anni, ha due lauree, sono sanissima, ci manda anche la foto, ci scrive: non fate terrorismo, ho appena messo un cucchiaino di zucchero nel mio caffè. Se lo goda Maria Stella, bella anche. A tra poco. Faircamere & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Cuore e denari. Allora, e per stare bene dobbiamo investire in salute, intesa come benessere, prenderci cura di noi. E partiamo, cerchiamo di partire da un'informazione che, come sottolineava il dottor Ongaro, che abbiamo in linea con noi. Dottor Ongaro non vuole fare terrorismo, ma vuole raccontare un po', aggiornare sulle nuove ricerche, che cosa si dice, che cosa si sa di nuovo. Dottor Ongaro, ma come possiamo valutare se la nostra dieta è troppo dolce? Cioè, aiuti un po' a fare un conteggio, che voci possiamo inserire? Abbiamo quello che aggiungiamo a cucchiaini, poi quello in forma liquida, quindi succhi, bevande gasate, e poi che altro? Quello... Sì, io credo che sia da fare un po' di attenzione anche allo zucchero aggiunto in alimenti industriali non necessariamente dolci. Lo zucchero spesso si trova in alimenti anche insospettabili, come può essere la senape, il salmone affumicato, e anche questo può rientrare a far parte del conteggio. Dobbiamo prestare un po' di attenzione a quanto utilizziamo in termini di marmellata, di miele, come dicevo prima, la frutta, che pur rimanendo un alimento sano e utile non può essere in quantità eccessiva. Dobbiamo anche stare un po' attenti alla differenza che fa l'utilizzo di zuccheri e di carboidrati nel soggetto che fa molta attività fisica in quello che è assolutamente sedentario, perché non dimentichiamoci mai che si tende oggi a parlare molto di alimentazione e ancora poco del legame tra alimentazione e sport, che sono due fattori assolutamente imprescindibili e inseparabili. Dobbiamo stare attenti ovviamente alla quantità di dolci che mangiamo, e dobbiamo anche stare attenti a come tutto questo si somma alla quantità di cereali raffinati che mangiamo, cioè la pasta bianca, il pane bianco, il riso, eccetera, eccetera. Perché nella somma di tutto questo si crea un carico glicemico nel corso della giornata che può essere eccessivo. E ribadisco il concetto, certi paralleli come questi suggeriti da questo libro e da altri mi sembrano un po' eccessivi. Proprio perché comunque l'organismo umano è adattabile a tante varietà e tipologie di alimentazione. Attenzione però che questo nel tempo può essere anche una trappola. Proprio questa adattabilità fa sì che il micro danno che si crea quotidianamente sia invisibile e tu te ne accorga molti anni dopo. Quindi ribadisco, niente proclami estremi, però facciamo attenzione, perché il rischio di accumularne troppo c'è, e credo che la cosa più utile da dire agli ascoltatori sia: se vuoi permetterti un po' di zucchero in più nella vita, fai un po' di attività fisica in più, perché in questo caso hai indubbiamente un compenso alle potenziali azioni negative che lo zucchero ha sul metabolismo. Allora Giovanni, due domande. Intanto ringrazio gli ascoltatori per intervenire in diretta, ma anche via WhatsApp. La prima, facciamo un passo indietro, lei ha parlato di frutta, e la nostra amica Lia ci scrive: frutta va bene se non eccessiva, ma qual è il limite di eccessivo, considerata la personale interpretazione di ogni termine? Allora, credo che questo purtroppo non sia semplicissimo rispondere, perché è anche questo connesso a tutto il resto dello stile alimentare. Cioè, faccio un esempio: una persona che mangia una quantità molto modesta di cereali, in particolare di cereali raffinati, si può permettere indubbiamente più frutta di uno che invece mangia una quantità elevata di questi. Se mangio anche la marmellata e il miele, devo tenere in considerazione che forse non devo poi mangiare così tanta frutta. Quindi è difficile dare una risposta assoluta, no? E anche per questo io tendo a dire che non è proprio corretto dire bisogna mangiare più frutta e verdura, bisogna mangiare in particolare più verdura. La frutta dipende, direi che nella persona media un quantitativo attorno ai 2-3 frutti al giorno in genere non pone alcun problema, insomma. Allora, lei, dottor Ongaro, ha sottolineato il legame importante che ci deve essere tra alimentazione e attività sportiva. Si tende a parlare prima di stile alimentare, di attività sportiva, ma anche se abbiamo fatto delle belle puntate insieme, dottor Ongaro, per suggerire anche agli ascoltatori per qual è la dieta ideale per chi fa sport a livello amatoriale, comunque con un impegno settimanale piuttosto alto. E a proposito di sportivi. Ci scrive Giovanni: uovo sbattuto con zucchero e marmellata prima di una gara di nuoto di 3,5 km. Ci può stare? A me me lo faceva la mia mamma. L'uovo sbattuto, allora, tra mamma, che vuoi? Qui siamo di fronte ad una situazione che non è una situazione tipica. Cioè, certo, questo è uno sportivo. Di fronte a una prestazione agonistica, io il consiglio che do sempre agli agonisti è: se vogliono fare bene nella loro prestazione, dovrebbero secondo me in realtà avere una nutrizione piuttosto personalizzata. Però la risposta è certamente: se siamo di fronte ad un grande consumo, in questo caso indubbiamente di zuccheri, perché l'intensità dello sport agonistico difficilmente può essere tollerata con un metabolismo puramente dei grassi. Direi che ci può anche stare, insomma, quindi però ripeto, siamo in una situazione ben diversa se uno si fa l'uovo sbattuto con lo zucchero e poi si siede davanti al computer. Allora, dottor Ongaro, naturalmente tantissime domande su tutte quelle che sono le alternative dello zucchero, perché diciamo che per alcune persone ridurre lo zucchero è un po' difficile, perché siamo naturalmente attratti da ogni forma di dolcezza, coccole comprese, quasi tra virgolette dipendenti, lo metto tra virgolette. Poi, come lei ha sottolineato, dottor Ongaro, lo zucchero un po' è praticamente presente ovunque. Detto questo, dottor Ongaro, noi abbiamo tanti ascoltatori che vogliono sostituirlo, e quindi c'è chi chiede se va bene il miele, chi lo zucchero integrale, chi la stevia, chi il fruttosio, chi lo sciroppo d'agave. Le alternative allo zucchero per soddisfare la voglia di dolce, ecco, quali ci passa? Allora, io questa devo dire che è una domanda molto ricorrente e alla quale io do sempre però una risposta che forse non è la risposta che tutti si aspettano. Secondo me non è questo il punto, cioè anche ci fosse uno zucchero alternativo che ha un impatto meno forte sulla glicemia e sulla produzione di insulina, e in realtà tutte le alternative variano di molto poco, il concetto è che se comunque continuo a farne un utilizzo eccessivo e magari addirittura ancora più eccessivo, proprio perché penso è alternativo ed è meglio, secondo me non si risolve il problema. Allora, leggermente diversa è l'alternativa della stevia, che è un dolcificante naturale che non tutti amano per il gusto un po' vicino alla liquirizia che ha, però che non ha un'azione metabolica e dunque sul piano degli effetti, insomma, è diverso. Io direi che il concetto non è tanto questo, è quanto ne usi e quanto spesso lo usi. Cioè, io se ogni tanto mi voglio mangiare un gelato non mi pongo il problema con cosa dolcificato, francamente, perché la mia esposizione è talmente rara che non mi faccio nessun problema, e credo che la verità sia un po' là. Cioè, noi dovremmo capire che questi tipi di alimenti vanno utilizzati meno frequentemente, non come base della nostra alimentazione. Se riusciamo a fare questo, non ha tanta importanza la tipologia che poi utilizzo. Allora, per chi, sentendo il dottor Ongaro, decidesse oggi di chiudere o ridurre con lo zucchero, continuate a seguirci, perché il dottor Ongaro ci accompagnerà passo passo, e con noi si uniscono Emilia da Grosseto e Michele da Modena, che sentiremo dopo il nostro GR, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Quella di questa sera sarà la cosiddetta psicocena, cioè cena della psiche. Che cos'è? È una forma di digiuno ideata dagli antichi monaci buddisti del VII secolo. Con la fantasia si crea l'illusione. E siamo tornati insieme, il dottor Ongaro sicuramente se la ricorda la psicodieta. Non avranno aggiunto lo zucchero, dottor Ongaro? non me la ricordo di avere la psicodieta. Ecco, comunque alla fine, dottor Ongaro, siamo sempre lì. Adesso noi siamo partiti dalla da questa breve così frammento, ma per tornare a ribadire allora un concetto, che noi sappiamo esattamente quello che ci fa bene, quello che ci fa male, eppure facciamo così fatica poi a investire nella nostra salute, perché rimandiamo sempre. Oggi stiamo lavorando sul consumo di zucchero, perché facciamo così fatica a ridurre o eliminare i cucchiaini che aggiungiamo al nostro caffè o le bevande zuccherate o i dolci, e ne stiamo discutendo anche per chiedere a lei, dottor Ongaro, di aiutare chi volesse oggi fare il primo passo a farlo. D'altronde è un approccio che lei sta così sperimentando e descrive nel suo nuovo libro Vivere a Pieno, sottotitolo Scienze e pratica per raggiungere salute, prestazione e felicità. Un libro che affronta proprio il tema della salute e del benessere psicofisico da una prospettiva differente, motivazionale, direi, dottore. Sì, motivazionale e ancora di più dal mio punto di vista è l'aver notato dopo ormai parecchi anni di esperienza che sapere è fondamentale ma non basta. Evidentemente certo, ci sono dei fattori sul piano in particolare emotivo legati alle abitudini che adottiamo, la difficoltà appunto a cambiarle, che mi fanno ritenere che il problema stia un po' altrove. Cioè oggi non ci si può più nascondere dietro al fatto che non si sa che mangiare i broccoli faccia meglio delle patatine fritte o che muoversi faccia meglio che stare seduti, e che dunque c'è da chiedersi come mai le persone non riescono a farlo, e bisogna, credo, adottare delle tecniche un pochino più specifiche per agevolare il cambiamento di comportamento. Insomma, quindi questo libro è un po' un viaggio dentro se stessi, se vogliamo. Bravo, è una prospettiva un po' differente rispetto ai libri precedenti. Sì, e sì, insomma anche lei è arrivato un po' al libro della maturità, dottor Ongaro. Non lo so, la maturità è la consapevolezza che forse ci sono più piani di lettura su questi problemi, insomma. Però mi è piaciuto molto perché lei spiega che l'importante è fare il primo passo e che si fa più fatica a partire che a proseguire, perché poi le soddisfazioni che raccogliamo cammin facendo ci motivano, e ormai insomma la bicicletta ormai va, ecco. Sì, assolutamente, credo che questa sia una delle cose sottovalutate, cioè le persone tendono a parlare di coloro che riescono a cambiare abitudini in maniera significativa come di persone con un'enorme forza di volontà, con un carattere di ferro, io non ce la faccio, io sono pigro. In realtà la ricerca in ambito comportamentale delinea un altro quadro, cioè queste sono persone che hanno superato una soglia iniziale di difficoltà che si tende a riferire in particolare ai primi 2 mesi, dove bisogna veramente continuare a battere il chiodo, cioè quei primi 2 mesi sono una cosa fondamentale, perché quella nuova abitudine che ti costa tanta fatica, se la ripeti costantemente all'interno di questi 2 mesi, superi una soglia cosiddetta di automaticità dove la fatica comincia a non sentirsi più. Tant'è che se uno chiede a una persona, per esempio, regolarissima con l'attività fisica, ma ti richiede fatica a farla, sì, fatica nel fare l'attività fisica, ma non nel decidere oggi, adesso sono le 5, vado ad allenarmi. Cioè, quella componente dell'indecisione, del tentennamento, viene completamente messa da parte sostanzialmente dalla pratica continuativa per i primi 2 mesi. Le persone fanno molta fatica perché rimangono sempre in una sfera di da principiante. Ecco, come un po' sempre da zero. Sempre sulla rampa di lancio. Bravo, un po' il sortentenna. Emilia da Grosseto e Michele da Modena, ci scusiamo per l'attesa. Precedenza Emilia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Vi seguo spesso e vi devo fare i miei complimenti. Grazie. Dunque, io sono una persona fortunata, come dicevate prima, perché non mi è mai piaciuto lo zucchero, addirittura mi dà fastidio anche l'odore dello zucchero, quindi ho questa capacità di rifiuto. E ho 2 figli adulti che praticano, uno ha fatto triathlon fino all'anno scorso, l'altro è istruttore di nuoto. Direi che saranno fisicati, come si dice. Sì. Però non hanno mai utilizzato nemmeno loro lo zucchero, nonostante io, proprio per non privarli di questa cosa, perché non sapevo se faceva bene o faceva male, parlo, i miei figli hanno uno 43 anni, gli facevo delle marmellate, però ho imparato a fare la pectina, e con la pectina, non so se fa bene o fa male, ho risolto il problema e loro hanno mangiato spesso. E guarda, che pezzi di ragazze sono arrivati. Grazie Emilia. Dottor Ongaro, andiamo anche a Michele da Modena. Buongiorno Michele. Sì, buongiorno. Vorrei fare una domanda. Triathlon, lei fa triathlon, nuota, c'ha la mamma che le fa la marmellata con la pectina o no? Vabbè, io vado pazienza. In bici, ma una cosa tranquilla. Volevo chiedere questo. Il dottore ha detto prima che i dolcificanti, tranne la stevia, non sono delle valide alternative allo zucchero. La mia domanda è questa. Se lo zucchero aumenta la produzione dell'insulina e quindi è dannoso per l'organismo, i dolcificanti hanno lo stesso meccanismo oppure li sconsiglia perché sono tossici per altri motivi, diciamo? Grazie, grazie Michele. Dottor Ongaro. Allora, io personalmente direi che il punto di domanda è più che altro la sollecitazione dell'appetito, della fame e del desiderio complessivo di zucchero. Quindi io vedo, è chiaro che se uno dovesse dire sul piano metabolico è meglio utilizzare un dolcificante o lo zucchero, metabolicamente parlando, è chiaro che il dolcificante potrebbe essere una soluzione, però credo invece che complessivamente sulla regolazione dell'appetito, della fame, sul contenimento del desiderio di zucchero, l'effetto in realtà non sia così positivo. Dunque, sostanzialmente quello che sto dicendo è: se devo provare a regolare meglio il mio comportamento, il tentativo che io farei è di ridurre, ribadisco, lo zucchero nella vita quotidiana e di imparare a godermi, quando capita l'occasione, il dolce, il gelato, quello che è, in maniera piuttosto spontanea, e eventualmente, per chi facesse più fatica a eliminare lo zucchero nella quotidianità, cercare di capire che anche quando utilizzi lo zucchero ha una sua importanza. Per esempio, ripagarsi dopo un allenamento faticoso con un po' di zucchero è certamente meno problematico che mangiare la stessa quantità di zucchero alla sera tardi davanti alla televisione. Certo. Ecco, in sostanza credo sia un po' questo il discorso. Dottor Ongaro, per vivere a pieno bisogna quindi fare delle scelte. Fare il primo passo può essere difficile, quello che richiede più energia, ma come lei ha ben sottolineato, poi cammin facendo ci automotiviamo e andiamo avanti. Se dovesse salutarci con un'indicazione, magari già una piccola prova da fare in questo weekend per così ingranare la marcia verso il vivere a pieno, che cosa suggerirebbe ai nostri amici? Ma io direi che, stando per stare sul tema dello zucchero, direi che un passaggio secondo me cruciale da un punto di vista della gestione delle abitudini è proprio quello di dire, distinguere la casa e il quotidiano dagli ambienti esterni, gli amici, le feste, le cene, imparare a gestire bene anche qualche piccolo sacrificio nella quotidianità e a crearsi delle ricompense sensate quando si sta con gli amici in gruppo. Sul piano più generale direi che una cosa importante è che occorre trovare un equilibrio tra il piacere immediato e il piacere più sottile ma altrettanto importante di godersi la vita fino alla fine. E quindi è una gestione personale molto delicata, ognuno c'ha il suo equilibrio, ma dobbiamo tenere presente che molto spesso quello che ci dà un grande piacere nel momento non è quello che garantisce una vita a pieno a lungo termine. Abbiamo parlato di zucchero, dottor Ongaro, di scelte, abbiamo poi dedicato anche delle puntate per parlare anche degli effetti del sale, quindi dell'importanza di ridurre anche i pizzichi di sale, ma l'approccio che abbiamo nei confronti dell'utilizzo di queste due sostanze come scelta di salute è più o meno identico a quello che ci troviamo a fare quando decidiamo di fare un investimento per la nostra salute. Vedi, mi sto avvicinando, vedi, investimento per la nostra salute. Ma vedi? Ma quanto dottor Ongaro, mi lo schema, il paradigma poi è più o meno simile. Sì, indubbiamente, cioè, ripeto, ci sono tante cose che ci piacciono e su questo non ci piove. Alcune di queste cose che ci piacciono tanto non ci fanno benissimo a lungo termine, dobbiamo imparare a gestirci. Non significa certamente eliminare tutto e non godersi niente più della vita in questo istante, ma significa trovare un personale equilibrio, quindi è un po' come quando appunto nel tema dei soldi devi decidere se spenderti tutti subito e fare una gran festa oppure dire ma forse me ne metto anche un po' via per vedere di avere qualche soldo in più avanti nella vita. Insomma, alla fine Lo prendi come tuo esperto adesso il dottor Ongaro. Tu lo sai che doveva aggiungere che anche non disdegnerei l'idea. Doveva aggiungere anche l'altra parolina. Diversificare. Esattamente. E poi il dottor Ongaro era pronto. È vero anche nella salute. Assolutamente. E poi comunque ci sono delle notizie sullo zucchero. Era pronta una guerra commerciale di nuovo fra Stati Uniti e Messico che è stata scongiurata. Per cui vedi, se voi utilizzate degli argomenti che si prestano molto bene ad essere anche trattati da me, se siamo cuore denari, non è colpa nostra. Non è colpa nostra. Va bene, dottor Ongaro, allora vivere a pieno oggi. Oggi proprio l'abbiamo quasi tenuto a battesimo, dottor Ongaro. Le madrine. Decisamente, vedi che madrine. Cuore e denari. Grazie, dottor Ongaro, alla prossima. Grazie a voi, a presto. Lo zucchero, sì, sarebbe necessario in queste ore alla signora May per addolcire un po' la pillola amara che ha dovuto ingoiare nelle ultime ore. Prova peraltro, anche se senza zucchero, ad edulcorare le conseguenze politiche del voto britannico, che appunto ha avuto le conseguenze che sapete, perché ne abbiamo parlato diffusamente anche nei nostri giornali radio. Sto ricontrollando un po' anche tutti i siti. La signora May è pronta ad essere ricevuta dalla regina Elisabetta, vuole un governo con gli unionisti del DUP, non sappiamo bene appunto come pronunciarlo, di UP, insomma ci sono tanti modi con cui questa formazione politica viene descritta. Detto questo, sono giornate calde per i mercati finanziari, e non perché l'estate sia arrivata, ma perché abbiamo una rosa di eventi da continuare a commentare, tutti destinati ad impattare nel breve e nel medio periodo in modo significativo sia nell'attività degli investitori professionali, ma di conseguenza anche nelle scelte di risparmio e di investimento dei piccoli risparmiatori. E ieri abbiamo avuto proprio un esempio di questo calendario di eventi da osservare attentamente. Proprio per questo motivo, come vi anticipavamo poco fa, abbiamo deciso di traslare ad oggi la puntata di Investire Informati, proprio per avere un quadro chiaro intanto del responso delle elezioni britanniche, un quadro chiaro del responso del super giovedì che aveva in programma non solo le elezioni politiche britanniche, ma anche l'importante riunione della Banca Centrale Europea a Tallinn in Estonia e l'audizione dell'ex direttore dell'FBI James Comey davanti ai membri della Commissione Intelligence del Senato, che sta indagando sull'interferenza appunto della Russia nelle recenti elezioni presidenziali americane. Sullo sfondo intanto però ci sono stati anche tanti altri argomenti negli ultimi giorni che poi sono stati messi in secondo piano. C'è la crisi diplomatica con il Qatar, c'è il salvataggio di una grande banca spagnola e non dimentichiamoci il tema rischio politico Italia. Le elezioni anticipate in questo caso a quanto pare non ci saranno, perché non abbiamo nessuna legge elettorale con cui farle, e ieri abbiamo avuto l'ennesimo simpatico spettacolo in Parlamento che quantomeno ha avuto il merito di far crescere la borsa e far scendere lo spread fra BTP e Bund. Allora, che settimana ragazzi, abbiamo di argomenti da affrontare nella nostra rubrica di oggi. Investire informati. Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, sapete che io tanto l'accento lo metto sempre nella parte sbagliata, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Stiamo guardando anche la BBC in diretta per cercare di capire appunto come si sta completando la formazione del Parlamento britannico. Detto questo, le borse come hanno reagito rispetto al voto? Appunto molta volatilità sul mercato valutario con la sterlina, che stanotte è precipitata, poi ha ripreso un po' di quota sulle altre divise internazionali, ma è ancora piuttosto debole. Le borse sono tutte positive, Londra compresa, che guadagna lo 0,80%, ma questo ancora una volta è un effetto della sterlina che va giù e quindi fa prendere il volo alle società che esportano molto e che chiaramente beneficiano di una divisa competitiva. Parigi più 0,57%, Francoforte più 0,51% e Milano più 0,40%. Poi andremo ai dettagli della seduta di Piazza Affari. Allora, Lorenzo Alfieri, da dove vuole cominciare? Che aspettative avevate rispetto al voto britannico? Cosa vi ha colto di sorpresa? Perché qua in tanti dicono, siamo tutti sorpresi, molte società anche concorrenti alla vostra. La borsa non è sorpresa per niente, mi sembra anche piuttosto tranquilla, se non contenta. Ma diciamo che negli ultimi giorni obiettivamente il consenso di una soluzione elettorale, di impasse, stava prendendo sempre più piede, quindi